Europa 24. Buongiorno da Laura Bettini per questa edizione. Quindi c'è sempre la crisi ucraina in primo piano, l'aereo malese abbattuto nei cieli dell'est del paese. Avete sentito adesso le ultime notizie in GR24. Ci colleghiamo con il Lussemburgo, con Beda Romano. Le diplomazie europee restano guardinghe in attesa di reazioni concrete da parte della Russia nella vicenda ucraina. Molti ministri degli esteri riuniti oggi qui in Lussemburgo per un consiglio degli affari esteri hanno esortato il presidente russo Vladimir Putin ad accettare il piano di pace del presidente ucraino Petro Poroshenko. Quest'ultimo ha proposto un cessate il fuoco unilaterale nella parte orientale dell'Ucraina, teatro da settimane ormai di scontri tra forze ucraine e oppositori filorussi appoggiati da Mosca. Per ora Putin ha parlato della necessità di un cessate il fuoco durevole. Dal canto suo il ministro tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ammesso che la settimana è cruciale, mentre il suo omologo inglese William Hague ha sottolineato come l'Unione Europea sia sempre pronta ad inasprire le sanzioni economiche contro la Russia, in mancanza di segnali concreti da parte di Mosca. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Grazie a Beda Romano. Le sanzioni, ha detto ieri l'alto rappresentante per la politica estera europea Ashton, potrebbero interessare i settori dell'accesso ai mercati dei capitali, della difesa, delle tecnologie sensibili, incluso il settore dell'energia. Ma non sarà una decisione facile da prendere, dipendendo non solo dalla voglia di Mosca di collaborare, come ha detto l'Ashton, ma anche dalle complesse relazioni economiche e strategiche che legano la Russia all'Europa. Emblematico il caso delle due navi da guerra vendute da Parigi a Mosca. Da Londra il premier Cameron ne ha fatto un grande scandalo in questi giorni, ma un rapporto del suo stesso Parlamento appena pubblicato gli rinfaccia che anche la Gran Bretagna sta continuando ad esportare armi ed equipaggiamento militare verso la Russia. La stampa britannica intanto riferisce oggi che diversi miliardari russi della City starebbero già spostando capitali e conti, temendo di finire nel mirino delle misure punitive dell'Unione Europea. L'altra grave crisi in corso è nota, è quella medio orientale, di cui il premier Renzi ha parlato con il presidente egiziano Al-Sisi ieri sera nel corso di una telefonata. Renzi ha ribadito il suo impegno come presidente di turno dell'Unione Europea per favorire ogni iniziativa utile alla soluzione del conflitto e il pieno sostegno al piano egiziano di cessate il fuoco. Molte compagnie aeree mondiali intanto stanno comunque ancora cancellando i voli per Israele dopo lo stop ai voli americani imposto ieri dalla Federal Aviation Administration per un missile caduto non distante dall'aeroporto di Tel Aviv. In Europa invece ciascuno ha dovuto decidere per sé. Sono circa 30.000 i voli che ogni giorno attraversano il vecchio continente e si prevede che raddoppino entro il 2020, ma l'Europa, al contrario degli Stati Uniti, non ha uno spazio aereo unificato né gestito collettivamente. Come spiega Dominique Fouda, capo dipartimento dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, l'Unione Europea non ha potuto vietare i voli su Tel Aviv alle compagnie europee come hanno fatto gli Stati Uniti, ma soltanto sconsigliarli fortemente. Ciò comporta notevoli inefficienze come l'uso dei confini nazionali quali limiti delle aree di controllo e la presenza di aree militari per zone superiori al necessario. Per ovviare a tale mancanza, la Commissione europea ha promosso il Single European Sky, il cielo unico europeo. L'obiettivo è quello di favorire tutti coloro che operano nel settore del trasporto e rafforzare la sicurezza, ma soprattutto il programma MALE 2020 che prevede la costruzione di droni europei per la difesa del territorio. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Bruxelles la Commissione dovrebbe discutere oggi pomeriggio anche di target di efficienza energetica per il 2020 e il 2030, un tema chiave in tempi di crisi economica e geopolitica, ma secondo indiscrezioni riportate dal sito di informazione Euractiv, i Paesi membri sono indietro e arriveranno al massimo a un 18-19% e non al previsto target del 20% di taglio dei consumi entro il 2020. C'è ancora tempo, però, pensa la Commissione, per rimediare con interventi mirati sull'edilizia, le utilities e il mercato dei prodotti per l'efficienza energetica. Quello che davvero sembra essere a rischio invece è l'obiettivo per il 2030. Con un obiettivo vincolante del 40% di risparmio energetico, si stimavano annualmente una crescita economica del 4%, un'occupazione del 3%, un taglio alle importazioni di petrolio del valore di 505 miliardi l'anno. Eppure adesso questo target sembra irraggiungibile, si sta pensando a un obiettivo che non supererà senz'altro il 30% di tagli appunto ai consumi. È tutto per questa edizione d'Europa 24, ci ritroviamo domani alla stessa ora. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.